أشد على أياديكم وأبوس الأرض تحت نعالكم وأقول أفديكم هنا. Buonasera, siete in diretta con una nuova puntata di Andala, notizie dal mondo e storie di internazionalismo proletario. Oggi è martedì 18 maggio, sono le 19:03 passati da poco. Siamo in collegamento con Davide che si trova a Milano. Ciao Davide, ci senti? Sì, vi sento. Buonasera a tutte e tutte. Perfetto. Davide, io penso che, come è doveroso, immagino che dedicheremo gran parte di questa trasmissione agli accadimenti che stanno succedendo appunto in Palestina, dove purtroppo ci sta Israele che in queste notti sta bombardando incessantemente Gaza, anche utilizzando il fosforo bianco, che tra l'altro è un'arma vietata proprio per gli effetti che causa, sebbene purtroppo sia stata già utilizzata sia da Israele sia anche dagli Stati Uniti. Però ecco Davide, purtroppo lo scenario insomma è abbastanza fosco. Davide, facciamo un po' il quadro della situazione. Sì, innanzitutto vorrei partire da dai dati che provengono da Gaza, che sono delle ultime ore, che sicuramente andranno aggiornati in negativo. Infatti sono stati, questo è un dato di 5 che è uscito, un'agenzia di stampa è uscita 5-6 ore fa, quindi sono stati 165 i raid israeliani effettuati solo la scorsa notte, con 243,4 milioni di dollari si ammontano alle perdite finora stimate. Forze di cielo, terra e mare hanno lanciato più di 1615 raid e attacchi dall'inizio dell'aggressione a Gaza, colpendo varie aree della striscia, concentrandosi sul bombardamento in particolare di case, edifici residenziali, governativi, sedi centrali, infrastrutture, comprese le strade. Abbiamo visto i bombardamenti attorno allo Shifa Hospital, che non è stato bombardato, ma sono state bombardate tutte le strade che conducono all'ospedale, l'ospedale più importante di Gaza. E ricordiamoci, visto che quando diciamo noi ce lo ricordiamo, che siamo sempre in pandemia, ma che passa sempre in secondo piano. Quindi aerei, artiglieria e corazzate e navi da guerra dell'occupazione hanno effettuato 165 bombardamenti la scorsa notte, concentrandosi in particolare ad ovest e ad est di Gaza City e sul nord della striscia. L'aggressione sionista fino ad ora ha provocato in totale, per il momento, i morti si contano 213 persone, di cui 61 bambini e 36 donne. Il numero dei feriti è finora di 1450, la maggior parte dei quali sono donne e bambini. Salam Maruf, capo dell'ufficio stampa del governo, ha indicato che l'aggressione ha causato grandi perdite materiali e danni alle infrastrutture, alle case dei cittadini e alle fattorie, che ammontano, come abbiamo detto prima, a 243,8 milioni di dollari. Ha spiegato che sono state bombardate oltre 1174 abitazioni residenziali, 7.073 unità abitative hanno subito danni moderati e parziali, 156 torri residenziali e case sono state bombardate e completamente demolite e 33 sedi dei media sono state completamente demolite. Abbiamo visto le immagini in tutto il mondo, ma anche se in Italia è prevalsa la censura. 57 scuole, strutture sanitarie e cliniche di assistenza primaria sono state gravemente e parzialmente danneggiate dai pesanti bombardamenti nelle loro vicinanze. Bombardati allevamenti di animali, terreni agricoli, pozzi e reti di irrigazione, con una perdita iniziale di 22 milioni di dollari. 27 milioni di perdite dirette riguardano stabilimenti economici e commerciali a causa dei bombardamenti della zona. Inoltre a cui si aggiungono 8 moschee che sono state completamente o gravemente demolite, mentre altre 26, una chiesa, un edificio di 5 piani, altre strutture sono state danneggiate con perdite materiali dirette stimate in 5 milioni di dollari. Nel frattempo, in tutto questo, l'occupazione tiene chiuso il valico di Kerem Shalom, ha riaperto oggi solo per poche ore, solo per far entrare il carburante dell'UNRWA, e impediva ai pescatori di andare in mare. In poche parole, l'assedio alla striscia ovviamente si sta intensificando, si sta portando all'estremo le forze. Forse questi dati non ci dicono nulla. Quello che ci dicono di più, ovviamente, sono le immagini che ci mandano i nostri fratelli, le nostre sorelle di Gaza, di quello che sta avvenendo nella striscia e la crudeltà che si sta consumando. Ma la crudeltà peggiore, la cosa più brutta a quella che stiamo assistendo, non è il fascismo israeliano, prima ne parlavamo, il terrorismo di Israele. Quello non ci sorprende perché da 73 anni che Israele è uno stato che si pone al di là delle leggi internazionali e che pratica la pulizia etnica come arma, come un meccanismo normale, e oltre all'apartheid per il controllo della popolazione. Perché, come ha affermato anche Human Rights Watch nel suo rapporto di 220 pagine, dal fiume al Giordano c'è una sola autorità reale, che è l'entità sionista, e quindi quello che ha realizzato è la completa apartheid. Però l'entità sionista deve fare anche non può fare conti con non vuole fare conti con un dato fondamentale, che non potrà mai, e dico mai, piegare la dignità dei palestinesi, perché quello che ci insegnano i palestinesi è la loro dignità. Puoi comprare i loro dirigenti, puoi porli all'estremo, rendergli la vita un inferno, come un inferno la vita a Gaza, anche senza la guerra. Ma quello che i palestinesi non baratteranno mai è la loro dignità di popolo e il loro dire che esistono. E infatti oggi, questo è un avvenimento importante, è stato dichiarato uno sciopero generale in tutta la Palestina, in Cisgiordania, nella Palestina storica del 48 e in tutte le città arabe, in quella che si chiama Israele, è avvenuto, hanno scioperato per la maggior parte. In Cisgiordania lo sciopero è stato totale. E ci sono stati anche dei forti scontri, soprattutto in particolare a Ramallah. Ci sono ritornate scene che non si vedevano dalla seconda intifada. Purtroppo c'è da registrare alla lista dei morti che avevamo, dei martiri che avevamo illustrato in precedenza, ai 213, anche un manifestante ucciso dall'esercito israeliano a Ramallah, proprio in provincia di Ramallah, ad Al-Bireh in particolare. Quindi la situazione, quello che non aveva messo in conto Israele, era appunto questo rinsaldarsi dell'unione tra tutti i palestinesi, anche quelli che vengono definiti arabi israeliani, i cosiddetti cittadini di serie B di Israele. E questo non l'aveva previsto. Quindi radere al suolo la striscia, ma non potrà mai cancellare quest'unità del popolo. But not every Jew is a Zionist. This is for Palestine, Ramallah, West Bank, Gaza. It's about time we globalize the intifada. Listen close, I've got six words for Obama. Long live Palestine, long live Gaza. Palestine, Ramallah, West Bank, Gaza. It's about time we globalize the intifada. Listen close, I've got six words for Obama. Long live Palestine, long live Gaza. The government supports the people of the UK, didn't. Zionism's not compatible with Judaism. The hijacked faith, the state is misrepresenting Israel equals displacement and ethnic cleansing. I know I'm on a list for being more verbal. Curse every Zionist since Theodore Herzl. Balfour was not a wise man. Shame on Rothschild. Between them, the monster they created has gone wild. We're a nation of war, of a foreign war. You're feeling it with the battle if I hit you with a stone. Stone. The escape from Iraq, الثمن سيد القاضي انظر إليه افتح دينيه كم من دليل يصرخ عليه اترك المطرق اعطيني حرياتي واربط Tears to laughter, our children don't fear disaster. Living near the master, clear the fastest, hear the casket. We rap when we die from bombastic talk. Looms after hot summer days in the thunder blaze. They murk your dreams like Theodore Herzl screams. In the UN in 48, third intifada for mother's daughters. Sons martyred in empty fathers' life. عودة وبس مجتمع كامل بالحبس رصاص ضرب وضرب المطر كبس وكبس النفس ليك انقطع حتى الطفل انرفس ست حدود محدين شيل الطير من القفص روح طير طير يا عمي روح انت دمي حياتي وقلبي معك هيدا ذنبي ناطر بس المهدي وعيسى أن يأتي والأمل الوحيد اللي صفى هو ربي وين تو تلفزيون و همش میشینن دروغ میگن داشتم اخبار میدیدم که چطورا جورا رو بچه ها و عشقای مادر ها رو زمین میریزن بچه ها شیرینن بهشون مشروب بچه ای که تازه یاد گرفته را بره و دستشو میگیرن پوری کرد بعد تیری زن چند وقت پیش صحنه های شبیه اینو تو چند قدمی میدیدم اه دارم چی میگم It's quite obvious what criminals use illegal weapons like white phosphorus burns your flesh to the bone and if you happen to live you'll be left infected with cancer you curse the fact that you did forgive me if I wish the same fate on those Israelis responsible for killing all those innocent little babies I studied the Torah and learned by their own admission Israel's actions are not kosher in their own religion بطلع حوالي فيش حياة أخذوا أرضي من تحت جاي أعطوني معاناة كنا نحمل طرية نترزى من الله خلونا نحمل بندقية نتوكل على الله مجزرة مذبحة الكل شاف على الشاشات مش اليوم مش ضفة مش غزة معا بالصفحات التاريخ شوف المسيح وشوف أكتر من 60 عام دق الأجساد في فلسطين The devil's got an unholy plan for the holy land So I hold my Quran Hold your power in the other hand No oasis just blood Ain't sand. Settlements setting up to eliminate child, woman, and man. Listen. No such thing as the Middle East, prophet. They deceiving you. No matter where you stand, there's always something to the east of you. So whether it's the Mossad or the FBI policing you, it's all one struggle until the final breath is leaving you. الشعب العربي وحدتنا عمود الثغري لازم نتعلم كيف نفكر لازم نتعلم كيف نودي رسالة بدون ما نسكر ابواب الايمان يا سيدي ما كنتش عرفت خيري لو ما جربت غيري فخد كلامي تجربي مش اهاني لازم نقطع راس الوحش عشان يضيع طريقه واخرته تنكشف Bene, torniamo qua in diretta, Davide, siamo sempre qui collegati con Davide che si trova a Milano, fuori sede, diciamo. In ogni caso, prima di insomma parlare anche delle manifestazioni che ci sono state proprio in solidarietà dei palestinesi in tutta Italia, anche qui a Salerno, vorrei ricordare brevemente una cosa, in quanto Israele nei giorni scorsi ha bombardato Gaza con il fosforo bianco, con bombe al fosforo bianco. Magari molti non sanno di cosa si tratta perché giustamente non si ha dimestichezza con armi militari, armi di distruzione di massa. In ogni caso il fosforo bianco è un agente chimico che è tossico per ingestione e inalazione e provoca necrosi ossea. Di solito viene conservato sotto acqua o sotto azoto, in quanto a 40 gradi, quindi esposto all'aria, brucia. Quindi immaginate che cosa può succedere a contatto con il corpo umano. Di solito l'azoto per uso civile viene utilizzato sui fiammiferi fondamentalmente, eppure però purtroppo gli scienziati l'hanno trasformato anche in un'arma. Infatti, sebbene le armi al fosforo bianco sono bandite dalle convenzioni internazionali perché sono un'arma che è offensiva verso l'essere umano, un po' come le armi incendiarie in generale. Vabbè, poco importa, perché né Israele né gli Stati Uniti hanno ratificato questi accordi internazionali. Però in ogni caso il fosforo bianco, a contatto con l'ossigeno che è presente nell'aria, produce anidride fosforosa, che genera un forte calore. L'anidride fosforosa reagisce violentemente con i composti contenenti acqua e quindi li disidrata, producendo acido fosforico. Il calore di questa reazione brucia la parte restante del tessuto molle. Il risultante è la distruzione completa del tessuto organico. Viene utilizzato nelle bombe incendiarie, le quali, come dicevo, secondo le convenzioni internazionali sono vietate, o meglio, potrebbero essere usate solo a scopo di illuminazione, per spaventare o per nascondere le proprie truppe. Altri utilizzi sono vietati dalle convenzioni. Ovviamente provo un profondo ribrezzo per un'arma del genere, per qualsiasi arma, però tornando nello specifico, Israele ha usato il fosforo bianco, e questo è documentato anche dalle relazioni dell'ONU, verso obiettivi militari in Libano nel 2006, l'ha utilizzato nell'operazione Piombo Fuso, sempre su Gaza. Ricordava anche Vittorio Arrigoni. Esatto. Esatto, in entrambi i casi Israele ha in un primo momento negato l'utilizzo di questo agente chimico, poi ha ammesso che le forze israeliane avevano utilizzato questo agente chimico, però senza specificare i metodi, i modi di impiego o esattamente le operazioni in cui era stato utilizzato. Nell'operazione Piombo Fuso addirittura ci stavano, oltre a Vittorio Arrigoni, che appunto con la sua testimonianza da Gaza appunto illuminava il mondo con quello che succedeva in Palestina, altrimenti purtroppo la cortina fumogena israeliana spesso si trasforma in censura. Però in ogni caso all'epoca alcuni articoli del Guardian, della CNN, parlarono dell'utilizzo del fosforo bianco su civili e bambini a Gaza. Addirittura fu utilizzato su ospedali, su scuole, quindi immaginiamo un poco. E a questo proposito addirittura il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite avviò un'indagine all'epoca, seguita anche appunto alla distruzione della sede dell'ONU tramite questo tipo di arma. L'indagine ha riportato che Israele ha effettivamente utilizzato missili a base di fosforo bianco. Poi vabbè, le conseguenze che ci sono state per Israele, lo sappiamo, sono state nulle. Nel frattempo però il fosforo bianco è stato utilizzato anche i giorni scorsi, dopo che, come dicevo, è stato utilizzato negli attacchi sia del dicembre 2008 sia a gennaio 2009 nella striscia di Gaza, e infatti pure Amnesty International certificò appunto l'utilizzo di quest'arma, proprio perché c'era un suo inviato che appunto fu testimone proprio dei resti di quest'arma, che addirittura erano ancora fumanti. E addirittura all'epoca, tra le zone più colpite dal fosforo bianco, ci fu anche la sede dell'UNRWA, che lo ricordiamo è l'agenzia dell'ONU per i rifugiati, che si trovava appunto a Gaza City e che fu attaccata dalle forze israeliane il 19 gennaio appunto del 2019. Sempre quel giorno, con il fosforo bianco, appunto, fu colpito anche l'ospedale Al-Quds di Gaza City, provocando un incendio che ovviamente costrinse lo staff sanitario a evacuare i pazienti. Tutto questo fu testimoniato, appunto, come dicevo, dall'inviato che si trova sul territorio di Amnesty International. Ovviamente pure gli Stati Uniti hanno fatto ampio uso di questo agente chimico, forse l'esempio più eclatante è in Iraq, a Fallujah, e infatti pure Rai News 24 lo riportò in un servizio giornalistico del 2004 di Sigfrido Ranucci. Ecco, questo stanno facendo gli israeliani. Al mondo, di fronte al mondo piangono e reclamano il proprio diritto alla difesa di fronte ai razzi, appunto, ai razzi che provengono da Gaza. E nel frattempo bombarda anche infrastrutture civili, soprattutto infrastrutture civili, appunto utilizzando la scusa, la cortina fumogena del diritto alla difesa, all'autodifesa. Però purtroppo questa non è affatto autodifesa, perché qui si tratta di un genocidio, di una pulizia etnica. Sicuramente siamo di fronte a crimini di guerra, perché così bisogna definirli, perché questi sono dei criminali di guerra, e solo in questo modo possono essere definiti. E io credo che noi oggi non dobbiamo avere paura di utilizzare questi termini, anche di denunciare il fascismo, il nazismo dello Stato sionista, proprio perché la storia poi purtroppo un giorno, e magari non oggi, condannerà questi atti efferati, così come furono condannati in seguito alla Seconda Guerra Mondiale, fu condannato l'Olocausto come un atto deprecabile, eppure nel frattempo l'Olocausto si è consumato. Ancora oggi assistiamo a festeggiamenti, più che altro ricordi in pompa magna dell'Olocausto. Eppure, nonostante questo, che cosa succede? Che oggi proprio chi si sente minacciato dall'Olocausto, o almeno così denuncia, commette proprio un Olocausto nei confronti dei palestinesi. Questi sono dei crimini contro l'umanità. Io spero che quanto prima la comunità internazionale, il mondo intero, apriranno gli occhi rispetto a quello che sta avvenendo. Anche durante la resistenza partigiana in Italia, le forze di occupazione tedesche, i nazisti fondamentalmente, utilizzo un termine dialettale salernitano che definisce bene questa cosa, proprio la sfravegatura della sfravegatura, cioè il peggio del peggio. Questi scarti di cloaca che erano i nazisti erano gli stessi che dicevano che, appunto, i partigiani li chiamavano banditi, li chiamavano briganti, terroristi, li chiamavano in tutti i modi, che è esattamente la stessa nomenclatura, lo stesso linguaggio che oggi viene utilizzato per definire in molti casi la resistenza palestinese, che non ci dimenticheremo, non ci scorderemo mai di ricordarlo. Persino il diritto internazionale afferma che i popoli sotto occupazione hanno diritto non solo all'autodeterminazione, ma all'autodifesa, perché qui stiamo parlando di armi che sono bandite, che vengono utilizzate ormai con una frequenza disarmante sulla popolazione civile, altro che obiettivi militari. Loro utilizzano queste armi in uno dei posti con una densità abitativa più elevata al mondo. Ma quali obiettivi militari? Quale militare pensano di uccidere? Sì, l'altro giorno dicono che hanno ucciso il capo del Jihad, che è un movimento, sì, islamista, ma della resistenza gazawi. Però fondamentalmente durante queste azioni militari perdono la vita decine e decine di civili, di bambini, per non parlare di chi, in seguito appunto all'utilizzo di queste armi che provocano delle ustioni che non guariscono più e che quindi spesso portano alla morte anche dopo settimane, in qualche caso anche dopo qualche anno, È chiaro che qua si sta consumando un genocidio ed viene fatto in maniera scientifica. Addirittura si stanno perfezionando perché quello che succedeva nel 2009 e anche nelle successive escalation militari israeliane a Gaza, c'era un numero elevatissimo di morti in pochissimi giorni. Ora invece si sono perfezionati perché il loro obiettivo è quello di ucciderli lentamente, in modo tale che anche nella statistica dei morti loro hanno sempre, come dire, lo scudo dell'antisemitismo e dell'autodifesa. Ma qui non si tratta di antisemitismo. I veri antisemiti sono proprio i sionisti, sono loro i veri nemici dell'umanità. E infatti, e lo ricordiamo per chi magari non è a conoscenza di questo, che è un fatto storico, tra le popolazioni semitiche si annoverano anche i palestinesi. Quindi noi non saremo mai antisemiti, non lo siamo mai stati, e sicuramente dire oggi che Israele sta compiendo dei crimini contro l'umanità, sinceramente mi sembra semplicemente guardare in faccia alla realtà, niente altro. La vera giustizia è proprio questa, perché anche l'equidistanza in questi casi, oltre ad essere ipocrita e squallida e fasulla, insomma, non rappresenta assolutamente quelli che sono i fatti in campo. Scusami Davide, mi sono dilungato, forse volevi aggiungere qualcosa? No, penso che forse è il momento di mandare uno stacchetto pubblicitario per poi tornare e fare anche un punto politico delle manifestazioni che ci sono state in tutta Italia, visto che è prevalsa la censura nel nostro paese. Davide, hai fatto un grande lapsus, perché in realtà su Radio Asilo non c'è pubblicità, quindi No, fondamentalmente di è mandare radio. la musica, scusa. Sì, infatti, assolutamente, infatti proprio per questo solo ti volevo correggere, perché assolutamente noi non abbiamo finanziatori se non la nostra buona volontà. عند منحدرات التلال أمام الغروب وفوهة الوقت قرب بساتين مقطوعة الظل نفعل ما يفعل السجناء وما يفعل العاطلون عن العمل نربي الأمل هنا عند مرتفعات الدخان على درج البيت لا وقت للوقت نفعل ما يفعل الصاعدون إلى الله ننسى الألم الألم هو ألا تنظف سيدة البيت حبل الغسيل صباحا وأن تكتفي بنظافة هذا العلم بنظافة هذا العلم Bene, Davide, ritorniamo in onda. Prima forse mi sono un po' fatto prendere, insomma, mi sono dilungato nel discorso che stavo facendo. Purtroppo Purtroppo, mentre leggevo la descrizione di queste armi, vedevo l'immagine delle ferite che lasciano, insomma, quindi mi sono un po' sdegnato, mettiamola così. A te, Davide. No, bene, direi di fare un po' anche il punto di quella che è stata la solidarietà che si è espressa in Italia, perché al di là della censura mediatica, perché abbiamo visto delle cose assurde passare per i telegiornali nazionali, anche per la televisione, per la RAI, ci sono stati dei servizi dove a senso unico verso Israele non c'era una persona che mettesse in risalto almeno una voce fuori dal colo, almeno una voce palestinese. Abbiamo assistito a scene indegne, però la risposta che c'è stata da parte della solidarietà internazionalista e soprattutto in Italia è stata forte. Però vorrei sottolineare la scena più indegna della RAI è stata nella giornata di sabato, quando in più di 20 città italiane si è sceso in piazza per la Palestina. Ci sono stati cortei, il presidio con annesso invasione stradale a Salerno, a Roma corteo, a Milano Napoli corteo, a Torino corteo, a Bologna corteo, presidi in tutta Italia, molto partecipati. E la RAI cosa ha fatto? Ha parlato delle manifestazioni che ci sono state a Londra, a Parigi, quelle in Italia, come se non fossero mai esistite, anzi si è dato invece alle piazze giuste per le Zan, invece per la Palestina c'è stato il silenzio dei media. Però il dato positivo invece è stata la risposta popolare della gente, e penso io ho avuto l'opportunità di partecipare, anche l'avevo già visto, perché la giornata di sabato è stata preceduta dal fatto che a Milano la manifestazione, c'è stata già una manifestazione il giovedì, e in questa manifestazione hanno partecipato più di 5.000 persone. A Piazza Duomo le aspettative hanno superato le aspettative degli organizzatori, non erano certo quelle, tanto che era una piazza difficile anche da contenere, e dove il dato possiamo dire si evidenziava maggiormente la presenza di questa gioventù araba di seconda, terza generazione, nati in Italia, e che rabbiosamente prendevano il possesso delle piazze. Stiamo parlando di giovani che magari, a differenza nostra che siamo abituati a vedere il telegiornale, io lo vedo in quanto insegno nelle scuole, loro il telegiornale non sanno nemmeno che cosa sia, vivono su Instagram, sui social, però viaggiano anche le immagini sui social, anche se io li odio sotto un certo aspetto, sotto un altro fanno viaggiare queste le immagini che arrivano da Gaza, soprattutto che in contatti con la Palestina, e quindi è evidente che c'è una rabbia, un senso di empatia che riguarda tutta questa gioventù araba e non solo la comunità palestinese. E penso che questo sia un dato che ci scambiavamo delle opinioni dopo la manifestazione, anche a Salerno in piccolo l'ha dimostrato. E ti dico che anche c'è stata un'altra manifestazione sempre qui a Milano proprio domenica, e che anche ha visto la partecipazione di circa 2.000 persone, una manifestazione rindetta proprio dalla comunità palestinese. Quindi il popolo, la gente si sente vicino a Gaza, alla resistenza, e questo è un dato importante. Ma ripeto, il dato più importante, il dato bello da vedere, questa gioventù araba, questi giovani di seconda e di terza generazione prendere parola e essere protagonisti. E devo sottolineare soprattutto con piacere il ruolo delle donne, di queste giovani donne con l'hijab, che esprimono una forza, una determinazione importante, e quindi è un segnale molto importante. Però allo stesso tempo in questo momento si è lanciato il Che Fare in questo momento, è proprio volto a rompere questo muro della disinformazione in Italia. Infatti è stato lanciato l'appello da parte dei giovani palestinesi in Italia ad manifestare sotto le sede RAI a partire da venerdì, nel fine settimana, proprio per rompere questa omertà. Questa omertà che implica una presa di posizione netta e precisa a favore di Israele e dei suoi crimini di guerra, perché quello che sta passando, basta aprire ad esempio qualsiasi telegiornale, vedi Lanza, morte due persone in Israele per i lanci da Gaza, e non si, è come se i 213 morti invece che si contano nella striscia di Gaza fossero semplicemente dei numeri, non avessero un nome, non hanno un cognome, non hanno una storia. Cioè, e questo è proprio che fa mettere in risalto i due pesi e le due misure, perché chi ama la vita umana la ama a prescindere, però mettere in risalto, ad esempio, fare 2 a 213 mi sembra un poco una sproporzione di forze, una sproporzione netta, sulla base del fatto che poi quando si parla di guerra c'è da dire che sì, Hamas ha qualche missile, ma non è un esercito, la Palestina non ha un'aviazione, cioè non ha una marina, mentre Israele è la quarta potenza militare del mondo. E dicevo, il dato importante della solidarietà internazionalista, ancora una volta devo dire che poi i portuali italiani hanno dato un grande segnale con la soffiata che è arrivata dai portuali di Genova, di questa nave che stava trasportando un carico d'armi che era diretto a Israele, e i portuali di Livorno hanno manifestato la loro obiezione a caricare a eventuali container o materiale pericoloso. Quindi il dato della solidarietà è quello, il dato importante. Allo stesso tempo si pone ovviamente la prospettiva politica. Il dato di fatto, ne parlavo all'inizio della trasmissione, è quello che noi viviamo. Parliamo di un contesto dove l'apartheid la fa da padrone, e dove dall'altro l'unica giustizia, dove i palestinesi sono cittadini di serie B, l'unica pace, il primo giorno di pace, come diceva Marwan Barghouti, e come dice Marwan Barghouti, sarà l'ultimo giorno di occupazione, quello sarà il primo giorno di pace, ma fin quando non finirà l'occupazione non ci potrà mai essere pace. Il rischio è che da una parte è ovvio che noi sosteniamo la resistenza, sosterremo sempre il diritto legittimo dei popoli a resistere con ogni mezzo necessario, è un diritto sancito a livello internazionale, sebbene lo si vuole dimenticare, perché comunque, come dicevamo, siamo uomini di pace ma non siamo pacifisti, però il discorso è che a livello politico poi si resta sempre. C'è il rischio che questa gioventù, questa anche se rende protagonista soprattutto nei territori, possa essere schiacciata politicamente senza una guida laica come poteva essere quella di Barghouti se si fossero tenute le elezioni. Un altro dato interessante, poi ti lascio la parola, che volevo sottolineare, che forse non l'abbiamo detto perché ovviamente le immagini che vediamo, i video che ci mandano dalla striscia di Gaza a volte li fanno addormentare difficili, anzi non ti fanno nemmeno dormire, però c'è un dato politico importante, appunto, dicevo, quello della solidarietà dei popoli, dell'unità dei palestinesi, come avevo detto all'inizio, ma soprattutto anche dell'unità dei palestinesi della diaspora, dei palestinesi che vivono nei campi profughi in Libano e in Giordania. Stiamo parlando più di 2 milioni di persone, ci sono numeri spaventosi, e che hanno manifestato la loro solidarietà. Il vedere questi cortei al valico di Allenby che arrivavano e cercavano di oltrepassare il confine, ci sono anche riusciti in alcuni casi, poi ricacciati dall'esercito israeliano. Ci sono stati 2 morti al confine con il Libano, il confine che abbiamo avuto anche l'opportunità di vedere con la delegazione di Alessa Brescia-Dila. E queste scene stanno a significare come il fatto dell'unità del popolo palestinese. Stiamo parlando ovviamente di palestinesi, appunto, di seconda, terza generazione, alcuni forse l'intifada non l'hanno nemmeno vista. E queste sono state delle scene belle che manifestano proprio l'unità di un popolo, dall'altra poi i palestinesi hanno il loro problema interno, però speriamo che dalla resistenza popolare possa nascere quella riconciliazione reale di cui si è parlato in quest'ultimo decennio tra Hamas, Fatah, che poi si può creare solo nella resistenza, non la fanno di certi dirigenti che ormai non rappresentano di certo le giovani generazioni, anche perché Hamas e Fatah si sarebbero andate alle elezioni, sicuro Hamas avrebbe avuto più voti di Fatah, ma se lo sognava il consenso di prima con la candidatura di Barghouti, Barghouti sarebbe stato sicuramente eletto presidente della Palestina, dell'autorità nazionale, quindi sarebbe cambiato tutto lo scenario. Però non è detta l'ultima parola, non è detto che ciò non possa cambiare. Le scene che abbiamo assistito oggi, in questi giorni, comunque dai territori occupati e nella Palestina del 48, sono scene che comunque non a livello di tifo, a livello di politico ci dicono di un popolo che non demorde, di un popolo che ci insegna, appunto come dicevo prima, la dignità, ci insegna cosa significa la resistenza. Io credo, forse vengo preso anche da una questione emotiva, però Gaza, almeno come l'ho visitata, in un momento anche in cui non c'erano grossi bombardamenti, certo c'è stato il bombardamento una sera, ma dimostrativo, Gaza per me insegna la vita, il popolo Gazawi ci insegnano cosa vuol dire la resistenza, la resilienza. Compagno a Gaza, vedevo che scriveva un compagno italiano, scriveva un compagno di Gaza che parlava italiano, cosa vi serve? Ci serve a niente, ci è bastata la vostra solidarietà. Quando abbiamo mandato le foto, anche ho mandato le foto del presidio di Salerno, il compagno a Gaza ha detto ti abbraccio, mi fai piangere, questa per me è la cosa più importante. Ovviamente stanno partendo anche raccolte fondi, in particolare quella su produzioni dal basso, cioè SOS Gaza, permetto di sponsorizzarla, anche perché coordinata da Medi Carbelli, presidente della CS, e quindi è importante anche quello, ma è soprattutto importante la solidarietà. La solidarietà tra i popoli è un qualcosa che non può piegare nessuna censura, anzi forse possono solo alimentarla. Israele e Netanyahu si sono fatti male i conti questa volta, perché ci sono cose che non si possono comprare. Si possono comprare le dirigenze, ti puoi comprare l'autorità nazionale, ma non ti puoi comprare la dignità di un popolo. Sì, Davide, dici bene, non ti puoi comprare la dignità di un popolo, anche perché, come dicevi, pure le manifestazioni che si sono viste nei giorni scorsi, più che manifestazioni, lì hanno praticamente oltrepassato il confine con lo Stato sionista, proprio perché ti puoi comprare le dirigenze, però, come dicevamo anche oggi, c'è chi purtroppo non ha niente da perdere e quindi è disposto. Se ti ricordi, Michele, scusami, se ti ricordi c'era un personaggio che Pertini mi ha detto che era un uomo che ha fatto la resistenza, citiamo lui per essere democratici, diceva che doveva essere messo al bando dell'umanità, che fu l'autore del massacro, colui che permise il massacro di Sabra e Shatila, quindi sto parlando di Sharon, sì, che pensava che comunque i nipoti, i figli dimenticassero, e invece non dimenticano e soprattutto ricordano quello che da più di 73 anni gli viene negato, il diritto al ritorno. Sì, Davide, ma infatti forse è proprio questa la cosa più bella, cioè che pure in Italia con le varie manifestazioni che si sono susseguite in tutta Italia in questi giorni c'è stato un vero e proprio protagonismo sia delle comunità palestinesi in Italia, dei palestinesi in Italia che sono tanti, ma anche di tutti gli arabi che si trovavano a queste manifestazioni, in particolar modo appunto le seconde generazioni, che sentivo diversi interventi, loro appunto reclamavano proprio il fatto di avere maggiori possibilità rispetto ai loro genitori, a chi c'era stato prima di loro, e che quindi proprio per questo avevano anche la responsabilità di lottare al fianco dei palestinesi, che rappresentano un po' l'emblema di quella che è non solo l'occupazione, ma è anche l'apartheid, la pulizia etnica e la violazione di qualunque diritto umano fondamentale. Tra le altre cose, Davide, e questo purtroppo è passato un po' in secondo piano, proprio in questi giorni, proprio sabato, ricorreva il giorno della Nakba, quelli che i palestinesi ricordano appunto come il giorno della catastrofe. Infatti lo ricordiamo, il 15 maggio del 1948 lo Stato, l'attuale Stato ebraico, così si definisce, si autoproclamò contro il parere dell'ONU, delle Nazioni Unite, occupando la Palestina storica. E i palestinesi, che furono espulsi dal nascente Stato di Israele, poi sono i palestinesi che purtroppo sono andati incontro alla Nakba, alla diaspora. Però nonostante la diaspora, appunto come dicevi, non hanno affatto dimenticato la loro terra, anzi pure io ho avuto modo di vedere, di parlare con giovani palestinesi nei campi profughi in Libano, i quali appunto erano in qualche modo grati pure a chi li stava ospitando, ai libanesi eccetera, però in ogni caso continuavano a provare questo desiderio, questo desiderio atavico appunto di fare ritorno nella loro terra. Qualcuno addirittura in casa tiene appese le chiavi della casa in Palestina del nonno, del padre, che fu costretto appunto alla fuga nel 1948 o anche in seguito nel 67, e loro addirittura ancora conservano le chiavi proprio come una memoria simbolica di un voler tornare nelle proprie terre, niente di più fondamentalmente. E secondo me forse il dato più interessante insomma di queste manifestazioni è proprio questo protagonismo giovanile. Come dicevi, anche qui a Salerno insomma siamo scesi in piazza sabato scorso, che era 15 maggio, proprio per sostenere i nostri fratelli, le nostre sorelle palestinesi, proprio perché non possiamo rimanere muti di fronte a quello che sta succedendo. Dobbiamo assolutamente prendere una posizione e non possiamo fare altro, noi persone civili, no, in senso classico del termine, non possiamo fare altro che prendere le parti dei palestinesi, al di là poi delle squallide e becere vetrine che abbiamo visto dei vari politici che ancora una volta sono andati a fare l'inchino a Israele per il loro tramite, che è la comunità ebraica romana, insomma una cosa abbastanza schifosa. Davide, io direi di fare un piccolo break musicale, perché ormai mancano pochi minuti al termine di questa trasmissione, e poi ritorniamo con le ultime battute. Free Palestine, free Palestine. You know, Hamas, if you look at the history, you'll find out that Hamas was encouraged and really started by Israel, because they wanted Hamas to counteract Yasser Arafat. Then we have election, then Hamas becomes dominant, so we have to kill him. You know, it just doesn't make sense. Revolution, free the oppressed, and put the real criminals under arrest. From the north to the south, south, east to the west, put your fist up, time for protest. Free Palestine from the Zionist blitz. No war, it's a massacre, they murdering kids. Superpowers talk shit with their hands in their pockets, while Israel keep dropping prosperous rockets. But genocide, Hamas, they beat the blame, cause they fight for the freedom of their people and domain. All we see is terrorism, an excuse for the slain. So I say, motherfuck what your TV proclaim. Over 1,000 murder civilians, but all that you hear is that they murder some militants. Obama, don't speak, give your guns to billions. We know that your cats don't support the Palestinians. Come on now, everybody make a difference. This ain't a military war, they kill infants. No benevolence, no defense. Free Palestine from what the world commends. Come on now, everybody make a difference. This ain't a military war, they kill infants. No benevolence, no defense. Free Palestine from what the world commends. Middle East, rise up, we need to rebel. A wrong queen is being killed by the infidel. Living life in a cage, the war like a cell. And you question the rage, hate for Israel. Let's take it back to a well-known fact. When you encourage Hamas to rise against Arafat, radicalize a group to attack. And now you wanna wipe out a group that you back. Why don't you speak about that on the news? And the people can decide which side they wanna choose. But the media's controlled. And they mold all your views, and they won't accuse the Jews of human rights abuse. In 48 they made a forced nation, the plantation began evacuation. For Palestine we have an obligation to do what we can to end the occupation. Come on now, everybody make a difference. This ain't a military war, they kill infants. No benevolence, no defense. Free Palestine from what the world commends. Come on now, everybody make a difference. This ain't a military war, they kill infants. No benevolence, no defense. Free Palestine from what the world commends. Gaza, a city under siege from Israeli forces. In Gaza, over 1 million Palestinians live under the gun, and most of the guns are Israeli. The danger we were in didn't come from the Palestinians. Israel has turned Gaza into a battlefield. Come on now, everybody make a difference. This ain't a military war, they kill infants. No benevolence, no defense. Free Palestine from what the world commends. Come on now, everybody make a difference. This ain't a military war, they kill infants. No benevolence, no defense. Free Palestine from what the world commends. The weapons being used to kill so many Palestinians are American weapons. Bene, Davide, torniamo in voce. Non so se ci sei. Prima mi leggevi quest'ultima dichiarazione, quest'ultima perla di Luigi Di Maio. Sì, Michele, infatti ti leggo l'ultima perla di Di Maio, che è questa, per chiudere proprio in bellezza e capire il livello politico italiano del nostro caro ministro degli esteri, e che ci dice: l'escalation militare a Gaza rischia di fare arretrare la dinamica positiva innescata dagli accordi di Abramo, quelli tra Israele e paesi collaborazionisti arabi, per intenderci. Quindi, dice Di Maio, dobbiamo prevenire passi indietro in questo ambito. L'UE deve rivolgersi alle parti in maniera equilibrata ma chiara. E questo giusto per capire qual è il livello della politica italiana e soprattutto come si è schierata l'Italia in questa situazione, in questa aggressione militare verso la striscia di Gaza. Sì, Davide, ma soprattutto proprio in merito a questo, visto che siamo quasi in chiusura, io vorrei ricordare proprio che, siccome ci troviamo di fronte all'apartheid, perché di questo si tratta, quello che dobbiamo fare, che è il nostro dovere, è appunto attuare forme di boicottaggio, disinvestimento e sanzione proprio nei confronti di Israele, proprio perché è uno stato di apartheid, come persino Human Rights Watch l'ha definito. Quindi ecco, ovviamente l'invito a chiunque è quello di boicottare qualunque tipo di prodotto made in Israel. C'è una lunga lista di prodotti con tanto di case produttrici di marche, per esempio ci sono molte cose che sono reperibili al supermercato, un esempio sono le arance. Finora, almeno a Salerno, non credo di averle viste, almeno in zona dove faccio la spesa, però in molti supermercati, spesso soprattutto della grande distribuzione, si trovano queste arance Jaffa, che in realtà magari sembrano pure buone, però purtroppo sono sporche di sangue, quindi secondo me non vanno acquistate. Questo è Meglio solo. boicottare, meglio boicottare. Sì, questo è solo un esempio perché poi c'è una lunga lista di prodotti, anche informatici, eccetera, che potete trovare su internet, sul sito appunto del BDS, proprio perché quello che possiamo fare nel nostro piccolo, ognuno di noi, ancora prima di scendere per strada per fare manifestazioni e quindi dimostrare in maniera ancora più incisiva ed emblematica il proprio sostegno ai palestinesi, è proprio quello di attuare forme di disinvestimento, sanzione nei confronti di chi pratica l'apartheid, così come del resto fu fatto anche per il Sudafrica. Quindi io in chiusura, Davide, volevo ricordare un attimo questo aspetto che secondo me è degno di nota. Così come l'abbiamo ricordato all'inizio puntata, è un dato molto interessante, per esempio lo sciopero generale che è stato indetto oggi dal fiume al mare, proprio in solidarietà verso i palestinesi di Gaza sotto attacco e quello che sta avvenendo in tutta la Palestina con i continui attacchi dei coloni. Quindi Davide, io direi di augurare una buona serata alle nostre ascoltatrici, ai nostri ascoltatori. Ci diamo appuntamento alla settimana prossima, martedì prossimo, allo stesso orario, sempre con Anda, la notizia dal mondo e storie di internazionalismo proletario. Buona serata. Buonasera a tutte.